Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eccoci, buongiorno a tutti da Deborah Rosciani. Stavo chiedendo proprio all'ultimo secondo un'informazione appunto al mio assistente, me l'ha data, ma naturalmente mi ha fatto partire con una frazione di ritardo subito dopo la sigla. Comunque ci siamo, anche se oggi è il 1° novembre, siamo regolarmente in onda con Salva Danaio. Oggi parliamo di un bel tema che sicuramente non mancherà di appassionare molti di voi. Spero che non si indispettiscano altri, perché qualcuno potrà cominciare ad obiettare, già lo immagino, ma vi sembra con questo momento di crisi il caso di parlare di casa di vacanza, di case di montagna a Cortina d'Ampezzo piuttosto che a Cormaiere? Sì, ne parliamo, perché naturalmente quando parliamo anche di vacanze non è che ci siano solo ed esclusivamente queste località da frequentare o da ricercare per affittare o acquistare un'abitazione. Il nostro paese è ricchissimo di località interessanti che offrono delle opportunità anche a prezzi molto vantaggiosi, per cui tutti abbiamo il diritto ad avere, se siamo appassionati, perché io non lo sono particolarmente, ad un weekend di sciate appunto nelle belle zone appunto del nostro paese. Quindi parliamo di mercato immobiliare delle seconde case, che si prepara ad un inverno un po' più freddo del solito, però questo almeno stando ad alcuni dati che approfondiremo questa mattina, che prevedono una flessione delle compravendite come avviene per le abitazioni principali. Il segmento delle seconde case, lo sapete, risente della scelta, lo sapete perché ne abbiamo parlato molto spesso, della scelta dei proprietari e dei potenziali acquirenti di rimandare ogni decisione. I prezzi un po' scendono e chi possiede una casa in una meta turistica non vuole svenderla, chi l'ha sempre sognata invece potrebbe in questo momento non permettersela o non sentirsi di spendere così tanto proprio in questo momento di crisi. Quindi oggi a Salva Danaio facciamo un quadro dei trend del settore, concentrandoci in particolar modo sulle località montane data la stagione e analizzando alcuni dati, compresi quelli relativi al mercato delle locazioni che potrebbero di conseguenza essere preferite all'acquisto di un immobile. E oggi abbiamo approfittato della copertina di Casa 24 Plus, che offre uno spaccato proprio sull'immobiliare nelle zone di montagna. Si intitola In montagna prezzi in flessione, calo delle quotazioni del 4% con picchi nelle località di pregio. Ringrazio e saluto per essere con noi la curatrice di questa cover story, Paola Dezza del Sole 24 Ore. Paola, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Collegata telefonicamente perché abbiamo ben deciso di rovinarle una giornata di vacanza quest'oggi, ma a parte gli scherzi, Paola, poi coinvolgeremo anche i nostri ascoltatori. Forse dovevo chiamare anche il meteorologo per fare questa trasmissione stamattina, perché tutto dipenderà anche da quanta neve arriverà, lo segnali anche tu nell'articolo sul nostro paese, sulle nostre cime nei prossimi mesi. Lo scorso anno com'è andata, te lo ricordi? Io no, perché non sono un'appassionata di montagna, una sciatrice, mi concedo solo delle passeggiate, quindi non mi ricordo sinceramente come era stato. Non mi pare particolarmente bene, mi ricordo di miei amici appunto che invece non hanno, c'è stata una grande nevicata appunto in gennaio che ha un po' reso problematico anche la circolazione anche nelle città, però complessivamente tutta la stagione queste grandi sciate non me le ricordo, da parte a meno degli amici appassionati. Detto questo, noi oggi ci occuperemo di prezzi e lo faremo insieme a Paola Dezza, anche a Luca Dondi, analista del mercato immobiliare di Nomisma Real Estate. Dondi, buongiorno, bentornato. Buongiorno a voi. E per completare la rosa delle persone a cui ho rovinato questa giornata di vacanza, ringrazio e saluto per essere con noi anche Isabella Tulipano di Solo Affitti, responsabile della comunicazione, ma naturalmente anche un'osservatrice attenta delle tendenze in questo mercato, perché ci interessa capire che prezzi ci sono per chi vuole acquistare o vendere, ma anche per chi invece si può permettere qualche settimana di affitto in queste località. Cercheremo di capire anche qua che prezzi si possono spuntare. Tulipano, buongiorno e bentornata. Buongiorno a tutti. Allora, io come sempre, visto che oggi siamo in diretta, vi voglio sentire molto coinvolti stamattina nella trasmissione. Chiamateci all'800240024. Intanto raccontateci qual è la vostra località di montagna preferita, quanto riuscite a frequentarla nel corso della stagione invernale, che prezzi avete trovato per quello che riguarda gli affitti e anche le compravendite. Se vi state guardando intorno, fate un po' i nostri inviati sul campo, raccontateci quello che avete osservato, anche come tendenze rispetto agli ultimi anni. Ci potete anche scrivere al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it e potete andare naturalmente anche a curiosare la nostra attività sui social network, che come tutte le trasmissioni bazzichiamo anche noi su Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. La borsa, prima di partire ed entrare nel vivo del tema di oggi, la borsa è positiva, è partita male, ma adesso ha deciso di mettere a segno delle prestazioni positive, più 0,52% a Parigi, a Francoforte e Londra, che stanno viaggiando di pari passo, un pochino più indietro Milano, che segna più 0,46%. I migliori titoli: Salvatore Ferragamo più 3,51%, TOTS più 2,88%, Prismian più 2,49%. In discesa abbiamo Mediaset, Telecom e Buzzi Unicem, che stanno perdendo un punto, meno 0,8% per Enel Green Power e Fiat Industrial. Giornata ricca di statistiche dagli Stati Uniti, lo dicevo già nel giornale radio, abbiamo in particolar modo l'anticipazione del dato sulla disoccupazione attraverso la statistica dell'agenzia ADP dagli Stati Uniti. Conosceremo oggi quali potrebbero essere le tendenze del mercato del lavoro americano, tra l'altro un test di prova non irrilevante per i due candidati alla poltrona di inquilino alla Casa Bianca, visto che si va ad elezioni la prossima settimana. Volevo raccontarvi una cosa che è successa a Tokyo questa mattina, che ha comunque chiuso con un rialzo dello 0,2%. C'è stato un crollo del titolo Panasonic, che ha tagliato le stime per l'esercizio in corso, meno 20% ieri, questa mattina, per il titolo. Ma il gruppo ha fatto sapere che non distribuirà il dividendo per la prima volta dal 1950, e qua gli azionisti appunto sono rimasti di sasso. Una cosa un po' così carina da raccontare, per modo di dire. In ogni caso, la borsa noi adesso la lasciamo e oggi, invece di parlare delle solite questioni fiscali un po' pesanti anche per le famiglie italiane, oggi ci così divertiamo un po' parlando di casa per le vacanze e andiamo in montagna. Il cucuzzolo della montagna con la neve alta così, per la valle noi scenderemo con i piedi un paio di sci sci dal cucuzzolo. La stagione sciistica è ormai alle porte. Tanti italiani e non guardano alle località turistiche più rinomate, ma sono sempre meno quelli che coltivano il sogno di acquistare una bella casetta in cima ai monti. Secondo le rilevazioni di Nomisma, il mercato turistico subirà nei prossimi 12 mesi un calo delle compravendite pari al 4,8%, cui si affiancherà una discesa dei prezzi del 4,5%. Andando a guardare solo le località montane, il calo si attesta intorno al 4,16%. A perdere maggiormente sono proprio le mette più rinomate, come Cortina, Courmayeur, Madonna di Campiglio. Anche il mercato delle seconde case, insomma, soffre della crisi. Come accade per le abitazioni principali, i proprietari che possono rimandare la decisione di vendere aspettano di poter fare prezzi più vantaggiosi e anche i potenziali compratori preferiscono posticipare un investimento così importante. Insomma, se le nevicate abbondanti attireranno, si spera, tanti turisti, è probabile che nel prossimo inverno questi preferiscano l'affitto o il soggiorno nelle strutture alberghiere. I canoni di locazione sono previsti in discesa libera. Stando ai dati di Solo Affitti, nel 2012 l'affitto di un trilocale di circa 60 metri quadri a Courmayeur ha registrato un calo medio del canone del 4,1%. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, le vostre osservazioni. Come vi dicevo prima, mi piacerebbe che oggi faceste i nostri inviati sul posto. Avete già avuto modo di dare un'occhiata, anche magari solo virtuale, collegandovi ad internet, a quella che potrebbe essere la vostra località di vacanza per i prossimi mesi, quella che avete scelto per poter godere di qualche weekend dedicato allo sci, se naturalmente siete appassionati di sci. Allora raccontate c'ho al numero verde o anche al 349-238-6666. Intanto qualche prima rilevazione l'ha fatta Casa 24 Plus del Sole 24 Ore. In edicola oggi Paola Dezza ha curato questo monitoraggio. Allora, sulla seconda casa in montagna, Paola, la storia di copertina titola Mercato Sospeso. Perché? Sì, in attesa di vedere come si muoverà il trend in base a una serie di variabili che sono la crisi economica, la crisi immobiliare, l'arrivo dell'IMU che sicuramente ha pesato molto sul settore del mattone e anche l'incertezza che comunque guida i nostri acquisti immobiliari soprattutto. Noi siamo partiti dai dati Nomisma che registravano proprio un calo dei prezzi per le seconde case in generale del 5% e del 4% per quelle della montagna e che prevedono per i prossimi 12 mesi un calo di pari entità. E da qui abbiamo voluto capire se ci sono però delle occasioni d'acquisto, cioè non dare solo uno spaccato negativo della situazione in montagna, ma vedere se ci sono dei casi in cui potrebbe essere interessante acquistare. Mm-hmm. Quindi una volta registrato il calo che è diciamo significativo delle località di lusso come Madonna di Campiglio, Courmayeur, in cui i prezzi avevano tenuto molto, il calo è stato superiore anche al 6%, andare a vedere se ci sono delle vallate minori, paesini più caratteristici ma ben serviti e vicini a località famose che possono diciamo consentire un acquisto magari da 100-150 mila euro e allo stesso tempo dare l'opportunità di avere una seconda casa in una località pregevole. Ecco, guardiamo anche magari un investimento di questo tipo come un investimento vero e proprio, cioè magari chi vuole uscire dal mercato azionario piuttosto non comprare più BOT e BTP e continuare a consolidare l'investimento nel mattone, perché è quello che magari un nucleo familiare può continuare appunto a privilegiare, e quindi ci si guarda intorno per capire anche dove sono spuntate occasioni nuove di investimento nel settore immobiliare e nella casa appunto che può essere poi considerata appunto di vacanza. Luca Dondi, Nomisma Real Estate, che periodicamente appunto esegue il monitoraggio anche su questo mercato, ce lo anticipava Paola Dezza. Nomisma prevede per il mercato turistico nel suo complesso un calo delle compravendite del 4,8% per i prossimi 12 mesi e a ruota una discesa dei prezzi del 4,5%. Focalizzando la nostra attenzione sulla montagna, mi viene un po' da sorridere, glielo dico in maniera provocatoria ovviamente, tanto lei mi conosce, che fa un po' mi viene da sorridere a pensare a un calo di un prezzo di una casa appunto a Courmayeur del 4%, non neanche lo sente questa abitazione. C'è anche però da dire che siamo reduci da diversi trimestri di discesa dei prezzi, anche se le percentuali poi sono state sempre queste più o meno, però mettendole tutte insieme anche lì il mercato un pochino comincia a scendere, o no? Ma sì, sono cali tutto sommato contenuti e va considerata la resistenza che gli immobili hanno dimostrato in questi anni di crisi, soprattutto gli immobili delle località turistiche. È un calo che arriva ritardato rispetto alle dinamiche che sono state registrate nelle grandi città, che hanno fatto segnare eventi recessivi già a partire dal 2008-2009. Qui la tendenza è arrivata più tardi e quello che ha colpito è che è stata più intensa nelle località più rinomate, come se ci fosse stata in un'economia comunque di transazioni piuttosto contenuti una tendenza a disinvestire nei mercati più apprezzati, ed è un elemento di novità rispetto alle tradizioni e comunque a quelle che erano state le evoluzioni di questo mercato negli ultimi 10 anni. Le maggiori discese a Cortina, segnala Paola Dezza, su Casa Plus 24, -6,4%, con prezzi minimi che restano comunque a 14.000 euro al metro quadro, e Madonna di Campiglio -6,2%. Paola parlava anche d'ondi di queste vallate minori dove comunque ancora il mercato può e sembra estremamente interessante, dove tutto sommato le quotazioni hanno tenuto. Quali sono queste zone? Ci dia qualche idea interessante. Ma guardi, il problema credo che sia di tendenza generale. Entrare su questo mercato in una fase riflessiva dei prezzi è comunque un azzardo in qualche modo, perché non si è ancora esaurita una tendenza recessiva, per cui andare a cogliere delle occasioni a livello generale è piuttosto difficile. Bisogna andare su situazioni puntuali di singoli immobili e non di città o paesi che hanno dinamiche in controtendenza rispetto a una dinamica generale, per cui è difficile individuare una località, Canazei piuttosto che altro, proprio perché le occasioni si trovano a livello di singolo immobile e non a livello di paese. Dondi, la sua città di montagna preferita qual è? Mi è Madonna di Campiglio, però io sono un amante della montagna. Come noi, ci siamo messi tutti insieme stamattina. Anche noi siamo un po' tutti dei marinaretti. Devo fare questa domanda anche ad Isabella Tulipano, naturalmente, non penserà mica di scamparla. Tulipano, buongiorno, di nuovo. Buongiorno. Lei è un amante della montagna o meno? Condivido l'amore per il mare, effettivamente. Allora faremo delle gran... Allora forse sarà questo il motivo per cui l'ultimo monitoraggio di solo affitti sulla seconda casa e gli affitti turistici, appunto, è particolarmente focalizzata sul mare. So che sembrerà assurdo, per la verità poi molti ascoltatori ce lo stanno già chiedendo. Chi è totalmente disinteressato alla montagna e quest'anno non farà dei fine settimana di sci, magari lo fa anche in un'ottica di maggiore investimento dei mesi estivi, no? Tulipano, per cui bisogna anche prendere un po' per tempo le situazioni, e voi già da ora avete cominciato ad esplorare quelle che potrebbero essere le tendenze dei prezzi degli affitti nelle località di mare. Allora ci anticipi già qualcosa, così ci togliamo il pensiero, affittiamo già da subito, quantomeno firmiamo qualche contratto preliminare con qualche proprietario. Che cosa avete scoperto? Diciamo che dal punto di vista degli affitti soprattutto notiamo dal punto di vista del proprietario un po' l'effetto IMU, quindi come dire la seconda casa mi costa di più perché inevitabilmente andrò a pagare comunque delle tasse più alte e quindi sono più interessato a questo punto a usarla anche direttamente ma anche a metterla in affitto per poter insomma guadagnare qualcosa e ripagare le tasse. Dall'altra parte, dal punto di vista insomma di chi sceglie di anche in vacanza di andare in affitto, insomma la crisi ingegna, come si dice sempre, quindi ci sono partenze più intelligenti, magari non aspetto l'alta stagione, ma nel caso del mare ad esempio vanno benissimo giugno, luglio o settembre. Mm-hmm. E ovviamente non posso più permettermi magari un mese intero, comincio a guardare con più interesse la settimana o i famosi weekend lunghi. Sì. Che sono una soluzione alternativa per chi poi insomma deve fare i conti comunque con le proprie spese. Allora io vi ringrazio tutti e tre intanto per queste prime indicazioni che adesso approfondiremo nella seconda parte della trasmissione, cominciando anche a coinvolgere i nostri ascoltatori, che mi fa molto piacere, sono ben presenti stamattina e molto vivaci anche nonostante la giornata di festa. C'è un'ascoltatrice, Paola, che ci scrive a Salvadanaio e ci racconta che, essendo un'appassionata di montagna, possiede una casa in Valpusteria dove va spesso sia d'estate che d'inverno. Effettivamente poi noi parliamo di montagna associandola alla neve in questo momento, ma per la verità è chiaramente un contesto che si può vivere tranquillamente tutto l'anno. È vero, dice Paola, che mi chiamo Rosa, scusate, è scritto da un indirizzo che si chiama diversamente Rosa. È vero che in questi ultimi anni ci sono sicuramente più possibilità di scelta, anche volendo acquistare una casa, i prezzi a mio parere però non sono molto diminuiti. Mi riferisco alla zona di Dobbiaco, dove io ho acquistato 6 anni fa 3.000 euro il metro quadro, ora i prezzi sono comunque simili. Sì, è vero, Peter Bescapè potrebbe in questo momento aver adottato un atteggiamento di totale rispetto verso la colonna sonora che abbiamo scelto per la nostra trasmissione. Ieri ho dato carta bianca a Marco Lombardo, che è il mio assistente, e lui ovviamente se ne approfitta, è giovane, pieno di fantasia e creatività, quindi cerca tutto ciò che è possibile per poter vivacizzare la nostra trasmissione. Visto che parliamo tanto spesso di sacrifici delle famiglie, almeno cerchiamo di farlo a volte un po' con il sorriso sulle labbra. Allora, oggi parliamo di... casa per le vacanze, chiaramente essendo ormai alla vigilia della stagione invernale, apertura degli impianti sciistici, ci focalizziamo sulla montagna, approfittando della storia di copertina proposta stamattina da Casa 24 Plus, la cover story che si intitola proprio In montagna, prezzi in flessione. Poi cerchiamo di capire appunto quali sono le zone dove i prezzi stanno scendendo un po', dove il mercato si sta rendendo attraente e dove anche invece, se non si può o non si vuole comprare, dove è interessante affittare e anche in questo caso a che prezzi. Con noi oggi Paola Dezza, collega del Sole 24 Ore, Luca Dondi, Nomisma Real Estate, ed Isabella Tulipano di Solo Affitti. 800240024 il numero per le vostre domande. Io comincio subito a sentire i nostri ascoltatori, poi commenteremo insieme i loro suggerimenti, anche i loro osservatori individuali, che sono sempre molto interessanti. Luca da Roma, buongiorno. Sì, pronto, mi sentite? La sento, sì, adesso bene, sentiamo se la domanda riusciamo a sentirla ancora meglio. Sì, buongiorno, sono Luca da Roma. Senta, visto la presenza dei vostri esperti, siccome sono in procinto di acquistare una seconda casa in una catastalistica, visto che sono una passata di montagna, e in secondo anche per investire un po' nella liquidità che attualmente ho, quindi volevo fare una domanda agli esperti. Visto che i prezzi, come voi state ribadendo, sono in netto calo e sto trattando un acquisto di una seconda casa nuova da costruire in una località in Val d'Aosta. Ah, ecco, magari se ci dà qualche dettaglio in più. Sì, perché precisamente a Cervinia, che è una località che permette di, appunto, di sfruttare l'abitazione sia d'inverno, ma soprattutto perché si scia anche in tutti i periodi dell'anno e anche d'estate. Mm-hmm. Quindi volevo anche metterla a reddito, quindi affittandola, che volevo capire se potevo ancora gestire questo momento di calo del mercato tirando, tra virgolette, il prezzo con il costruttore, oppure ecco, se devo aspettare ancora un po' e se era il momento giusto. Le posso chiedere quanto le sta chiedendo questo costruttore, Luca? Ovviamente, il metro quadro è... All'interno, allora, Cervinia è una località attualmente molto, cioè non a livello di Courmayeur magari, però ecco... E per fortuna lì siamo a tra i 5.000 e i 10.000 euro al metro quadro. Perfetto, sì, infatti dai, siamo sui 7.000 euro, adesso siamo al metro quadro, le abitazioni nuove sono abitazioni attualmente stilisticamente che rispettano quelle che sono le caratteristiche... Della zona, sì. Del design lì, del posto, quindi molto bello, già in classe A... Ecco, però volevo capire, ecco, la mia domanda, se vale la pena acquistare adesso oppure se c'è ancora un calo di prezzi qui nel futuro. Insomma. Luca, la ringrazio molto. Allora, Paola Dezza, tra l'altro tu oltre a Nomisma, nel monitoraggio che hai fatto hai sentito anche dei franchising immobiliari di una certa rilevanza, sì. Tecnocasa, Gabetti, ecco, hai fatto delle domande specifiche su questa zona complessivamente indicata dall'ascoltatore di Roma? Ma la Valle d'Aosta è la zona in cui i prezzi hanno tenuto meglio sostanzialmente, secondo Tecnocasa. Cervinia è cara, il signorile arriva infatti a 7.000 euro al metro quadrato, ma come diceva Fiaip, in un'intervista che fa parte da copertina, il nuovo di qualità realizzato in classe A è ancora una tipologia che attira la domanda. Quello che consiglio è guardare se tutti gli altri appartamenti sono già stati venduti, se invece il costruttore sta facendo fatica a vendere per poter avere lo spazio di trattare. Quindi, diciamo, nel caso specifico considerare una serie di variabili cercando di conoscere bene. Poi la diciamocelo, Paola, trattare bisogna sempre trattare a prescindere. Sì. Al di là di quello che succede intorno, quindi bisogna sempre provarci un attimo. Però ecco, effettivamente questa è un'indicazione interessante. Quanti appartamenti sono stati venduti di quella costruzione, quindi come ci si sta orientando anche altrove, perché poi è chiaro, se si compra una casa e non si ha neanche nessun vicino, perché evidentemente gli altri hanno ritenuto i prezzi troppo alti, questo deve un pochino spingerci a riflettere. Però ecco, vedevo effettivamente che tu indicavi che i valori in quest'area arrivano a 7.000 euro al metro quadrato per soluzioni signorili, mi pare abbastanza probabile che lo sia quella dell'ascoltatore appunto romano. Direi di sì. Sentiamo Luca Dondi cosa ne pensa di questa zona, cosa ne pensa soprattutto Nomisma complessivamente sui prezzi medi di compravendita di abitazioni che possiamo ritenere in ottimo stato, perché per Luca è nuova la casa. Sì, non voglio in alcun modo ostacolare il poco mercato che c'è, quindi dico che è senz'altro un buon acquisto. No, anche perché sennò lei non si troverebbe che statistiche farebbe. No, infatti è già un mercato talmente sottile che se anche ostacoliamo in questa fase le transazioni otteniamo veramente pochi valori su cui poi confrontarci. Credo che la zona sia eccellente e le dinamiche sono quelle di mantenimento di prezzo. In linea generale c'è un potenziale recessivo ancora inespresso, quindi a livello di tendenza complessiva ci sarà un'ulteriore flessione dei prezzi. Probabilmente a Cervinia questa capacità di tenuta potrà perdurare, per cui non negherei la possibilità di un ulteriore sconto, perché credo che sia anche nell'interesse del costruttore. Quindi sta comprando bene, ma potrebbe comprare ancora meglio, Luca. Leggermente meglio. Ecco. E invece per quello che riguarda il futuro poi di questa abitazione, Isabella Tulipano, Luca vorrebbe metterla a reddito. Possiamo tranquillizzarlo dicendo che sicuramente per ottenere, sia per affittarlo velocemente sia per ottenere un buon canone, indubbiamente incidono la tipologia dell'immobile, le finiture, quindi di pregio, se è nuovo tanto meglio, gli accessori, e quindi lui parlava insomma anche eventualmente di rifiniture, di insomma un immobile anche con una buona certificazione energetica, e la posizione, quindi essere in una località top, magari vicino a un impianto sciistico, sicuramente offre delle ottime possibilità. possibilità poi di affittarlo e affittarlo bene. Secondo lei quanto, se riesce a portarla a casa ad un prezzo un po' più basso rispetto a quello che ha pattuito fino a questo momento, quanto potrebbe realizzare in termini di rendimento appunto l'affitto di un'abitazione di questo tipo? E tra l'altro poi, ecco, per una località come Cervinia, quindi la Valle d'Aosta, un'area come questa, che differenze di quotazioni anche ci sono tra l'estate e l'inverno? Perché appunto, come diceva Luca, in realtà lui vorrebbe approfittarne per tutto l'anno, no? Sì, sicuramente, insomma, almeno noi lo sappiamo bene dalla figliata di Courmayeur, ci parla sempre di una netta differenza tra quello che si riesce a ottenere in inverno, in cui questi mobili sono particolarmente richiesti, e quindi con dei prezzi che a Courmayeur, per esempio, per una settimana arrivano dai 1.050-1.425 per un trilocale, e però che si abbassano indubbiamente invece nel periodo estivo, quando sono meno richiesti. Però insomma, parlando di una settimana tra i 1.050 e i 1.400 euro, comunque anche ottenere 800 euro in estate, insomma, parliamo di rendimenti abbastanza interessanti. Le nostre belle montagne, Alessandra da Torino dice, dove si sono combattute le guerre. Questa mattina stiamo ispirando anche a riflessioni di natura poetica. Stavo guardando, un attimo, mi prendo una pausa dalla montagna, perché Tulipano, c'è un ascoltatore che chiede solo un flash sul mare, perché volesse già cominciare ad ipotizzare la località dove trascorrere i mesi estivi. Insomma, che tipo di tendenze state osservando, qual è la località magari dove i prezzi stanno scendendo in maniera più consistente per quello che riguarda l'affitto di 3 o 4 mesi, dove invece c'è una situazione di, persone che affittano ma che sono irriducibili nella proposta del prezzo da fare. Per il mare avevamo notato già nella stagione appena passata che la Sardegna, contrariamente insomma a quello che era stato il trend negli ultimi anni, era stata un po' meno richiesta, ovvero qui valeva la regola di non cerco più la località top, quella dove trovo il VIP per intenderci, ma mi accontento magari di spiagge meno famose ma altrettanto belle, insomma, per quanto riguarda la Sardegna, mentre aveva tenuto bene sicuramente la Puglia, quindi tutta la zona del Salento, dove appunto i prezzi si può dire che erano rimasti grosso modo stabili, e tornata di gran moda la Sicilia. Qui invece avevamo avuto appunto prezzi in ribasso in località come Fontane Bianche, no, Tortigia, insomma, comunque è vasta l'offerta che offre la Sicilia. Stavo guardando intanto sempre i prezzi medi di compravendita di abitazioni in ottimo stato di Nomisma, e così non so come mai Dondi mi sono balzati agli occhi questi 25.000 euro al metro quadro, che è il top di gamma, immagino, che vengono chiesti a Portofino, anzi il top è 27.000, cioè, uno si deve comprare 2 metri quadri per poter stare in questo posto, ma voglio dire, è chiaro che è un mercato assolutamente fuori dalla portata di noi comuni mortali, ma io mi stupisco ancora davanti a queste cifre, oppure sono ragionevoli? Ma la ragionevolezza è difficile, concede un criterio soggettivo. Qui c'è molta variabilità, se vede, si va dai 13.000 ai 25.000, siamo su livelli comunque molto elevati, però stiamo parlando di un mercato molto molto contenuto in termini di numero di transazioni, quindi si tratta di una o due transazioni che hanno riguardato probabilmente investitori. E che sbilanciano completamente la statistica qua, certo. Sì, che fanno sì che il valore massimo sia su posizioni assolutamente impensabili per qualsiasi medio risparmiatore italiano. Allora andiamo a Gianluca da Rimini, che invece ha fatto delle belle scoperte in Trentino Alto Adige. Gianluca, buongiorno. Lei dal mare va in montagna. Pronto? Invece, giustamente, sì. Gianluca? Pronto? Sì, ci sente? La sento male. Allora facciamo una cosa, sento Paolo da Milano e con lei ripristiniamo la telefonata. Paolo, okay. Buongiorno. Buongiorno Deborah, sono Paolo, Mercato Libero, ciao, come stai? Ah, buongiorno, ci dica un po'. Un pizzico di ottimismo, dai. Ma perché, non eravamo abbastanza ottimisti? No, dico, lancio un pizzico di ottimismo. Ma ci mancherebbe altro. Sì, lo so, perché di solito lei interviene in qualche altra puntata, soprattutto però quando affrontiamo le amenità finanziarie che ci disturbano e anche disgustano qualche volta. L'ultima volta mi sono lasciato andare, ma quando sento parlare del Monte Paschi mi innervosisco un Va po' bene, troppo, oggi lasciamola da parte cose. Sperando che chi volesse fare un acquisto di una casina in montagna, piccola naturalmente, a portata anche di un portafoglio tranquillo, che concedano magari il mutuo per poterlo fare, ma qua ho qualche altro dubbio, questo è un altro discorso. Paolo, allora, cosa voleva raccontarci a proposito dell'immobiliare? Ci sono, ci sono alcuni fattori macroeconomici molto importanti che un acquirente dovrebbe tenere presente quando acquista, soprattutto l'aspetto demografico. Oggi siamo in una situazione in cui naturalmente la popolazione è vecchia e i giovani fanno fatica a trovare lavoro, quindi un effetto ricchezza nei prossimi anni sarà molto difficile che si generi in Italia, e questo terrà sicuramente i prezzi molto bassi. A questo appunto poi bisogna tener conto il discorso dei mutui, che oggi hanno dei tassi molto molto alti. Tenete presente che l'Euribor, che è uno dei parametri di riferimento dei mutui, è sceso in 18 mesi dall'1,40 allo 0,20, ma questo non ha portato nessun beneficio, anzi. Perché gli spread sono ancora altissimi, il ricarico della banca è ancora molto, molto alto. Ammettendo appunto però, ecco, andiamo invece al... Quindi, per parlare di casa, ecco, quello che stiamo facendo sicuramente a livello di, per quello che riguarda i nostri siti, parlo di alcuni blog di economia, ci stiamo occupando di due progetti. Uno in particolare si chiama Italy Discounted, che ha due branche, che è quello, uno winter e uno summer, e allora mi sono permesso di intervenire oggi. Fatto bene. Italy Discounted sono gruppi d'acquisto che si stanno formando. Noi abbiamo messo live l'idea che abbiamo 5 milioni di euro da spendere, non io purtroppo, ma un gruppo di persone che sono disposte a comprare delle case in montagna e 5 milioni per il mare. Ovviamente, tenuto conto del mercato e tenuto conto della situazione nelle varie città, partiamo da 50% di sconto, certo, da prezzo di mercato. Ci rivolgiamo naturalmente a tutti quei costruttori che si sono indebitati per costruire e che oggi non riescono a vendere nulla. Quindi diciamo che in qualche maniera adesso, a parte il venire incontro magari alle famiglie che non possono permettersi di spendere granché, ma che hanno tutto il diritto di poter avere qualche giornata di vacanza in qualche bella località, in realtà l'obiettivo è anche di far incontrare queste persone con appunto l'offerta, no? Perché qualche volta in realtà questo percorso si incrina ad un certo punto, perché il costruttore vuol vendere i prezzi che dice lui, perché chiaramente si è indebitato follemente per costruire. Dall'altra parte, le disponibilità finanziarie delle famiglie sono oggi estremamente limitate, per cui bisogna fare in modo che queste due parti, situazioni così distanti, a volte si incontrino. Quindi grazie a Paolo che ci ha segnalato la sua iniziativa Italy Discount, se non ho capito male, Paolo. Esatto, esatto. Benissimo, okay. Andiamo a curiosare poi. Dal cocuzzolo della montagna, con la neve alta così, nella valle noi scenderemo con i piedi un paio di sci, sci. Non io naturalmente, perché passeggio, ma non scio, non c'è niente da fare, non è mai scoppiato quest'amore tra me e gli sci, per cui non credo che dai 40 anni in avanti questo amore potrà esplodere. Detto questo, però, possiamo naturalmente goderci le splendide località del nostro paese, e allora noi oggi abbiamo deciso di dedicare Salvadanaio alle quotazioni per le compravendite o le quotazioni per gli affitti, per chi potesse permettersi. Qua noto ancora un po' di disappunto in molti ascoltatori che si lamentano quando facciamo trasmissioni di questo tipo, ma io voglio dire, non è che abbiamo un paese dove tutti stanno chiusi in casa e non si muovono più. Siamo totalmente consapevoli delle difficoltà di tantissime famiglie, ne parliamo tanto tutti i giorni, ma abbiamo anche chi il lavoro ce l'ha, per fortuna speriamo che lo mantenga, e magari una piccola fettina del proprio reddito la dedica anche al proprio benessere, riesce a potersi permettere ancora dei weekend fuori casa, delle vacanze fuori casa, ed è giusto anche che questo mercato venga tenuto sotto osservazione, soprattutto in questo, ci sono gli operatori, anche quelli che gestiscono gli impianti di sci, che naturalmente hanno il diritto di poter essere presi in considerazione così come tutti gli altri operatori appunto economici, per cui cerchiamo di capire un po' come vanno i prezzi in queste località, perché sono comunque temi che interessano molti di noi. Allora c'è, eccolo, Gabriele da Aosta. Intanto ho perso un po' di tempo perché volevo rapidamente sentire questo ascoltatore che ha dei suggerimenti concreti per il Luca di Roma di prima, che sta comprando appunto a Cervinia. Gabriele, c'è qualche suggerimento che gli vuole dare, se non sbaglio? Sì, buongiorno a tutti, sono Gabriele dell'agenzia Petit Maison d'Aosta, il titolare, mi occupo del mercato turistico in valle da più di 10 anni. Volevo, tra le altre cose, sto scendendo da un appuntamento a Courmayeur fatto con dei miei clienti, dove riusciamo in questo momento a vendere sui 5-6 mila euro al metro. I prezzi sono un attimino scesi, la parola magica adesso è funzionalità nell'acquisto di un immobile, anche per un domani a livello commerciale, per rimetterlo sul mercato. Certo. Al cliente di Cervinia gli volevo solo dare un piccolo consiglio, tenere conto che Cervinia è la situazione a livello turistica più alta della Valle d'Aosta, siamo intorno ai 2000 metri, quindi come costo di gestione di un domani di un immobile per quanto riguarda il riscaldamento, che può essere anche tenuto acceso 8 mesi, potrebbe cubare anche su un budget di gestione di un domani, e soprattutto un immobile a 2000 metri ha bisogno di una manutenzione che è sicuramente maggiore rispetto a un immobile in bassa valle o in situazioni di città. Certamente. Quindi i costi aggiunti, che si andranno poi a spalmare un domani sull'immobile stesso, possono comunque incidere sia per quanto riguarda un livello di locazione, quindi non abbiamo un rientro di locazione per spese di affiancamento, come dicevamo prima, sia anche per rimetterlo sul mercato. Certo, quindi insomma situazioni che potrebbero rendere in futuro un po' più rigide trattative, appunto in un secondo momento, se si volesse affittare o rivendere questo immobile. Gabriele, la ringrazio, ho voluto la sua telefonata perché c'è un altro amico che ci scrive, Carlo da Milano, che appunto ci racconta al 349-238-6666 che vorrebbe comprare una piccola casa in montagna, ma mi frena tutto, dice, le tasse, non solo l'IMU, anche l'IRPEF, dice lui, ma anche luce, gas, acqua, rifiuti, tutto pagato al doppio, e sostiene Carlo si tratta di una vera e propria rapina ai danni di chi non ha la possibilità di votare in quel comune. Quindi abbiamo anche ampliato il raggio d'azione delle nostre considerazioni. Però Paola Dezza, effettivamente è vero, noi ci stiamo tanto focalizzando sui prezzi di compravendite e affitti, forse qualche volta quando ci si approccia anche al mercato della seconda casa questi aspetti, come dire, balzano all'occhio solo in un secondo momento, magari quando la casa si è già comprata, invece le spese anche per la manutenzione sono un aspetto non trascurabile da tenere in considerazione. Certamente, anzi vanno prese in considerazione subito nel momento in cui si pianifica l'acquisto. Bisogna però dire che il mercato della seconda casa è un mercato del sogno, la seconda casa è la realizzazione tutto sommato di un sogno, di un desiderio, di avere una casa in una località dove uno va a passare i weekend, le vacanze, dove anche d'estate comunque passa buona parte del suo tempo, comunque ci manda i bambini, per cui sono una tante le considerazioni che bisogna fare. È un mercato piccolo, la discesa delle compravendite nel mercato turistico non farà crollare il mercato, perché in tutto sono poco più di 30.000 compravendite su un totale di 500.000 all'anno, quindi diciamo l'incidenza è relativa. Al tempo stesso, nel momento in cui si parla di mercato turistico, bisogna prendere in considerazione però anche il fatto che, vero, l'economia va male, la situazione è molto critica, ma c'è qualcuno che questo desiderio lo vuole realizzare. Allora perché non parlare di questo argomento del tutto? Infatti. Per questo motivo noi siamo andati anche a vedere dove effettivamente gli immobili non costano un milione di euro, ma con 100.000 euro in contanti, magari senza accendere il mutuo, si può acquistare una seconda casa che poi si sfrutta, invece che andare in vacanza in albergo o fare un viaggio d'estate, uno sa che per un po' di anni andrà sempre lì. Ovviamente no, stavo sorridendo alla tua, al fatto che ti sei soffermata sul in contanti, ovviamente non perché dobbiamo tirare fuori la valigiotta con i 100.000 euro in contanti, no. Non sia mai, non facciamo un'operazione di questo tipo, ma magari perché c'è liquidità che piuttosto che metterla in 3 BTP la si vuol mettere appunto sul mattone della vacanza. Rapidamente Gianluca da Rimini, che abbiamo recuperato, se ce la fa Gianluca, perché stiamo già andando verso la chiusura. Pronto? Fra 2 minuti, sì. Pronto? No, io volevo rappresentare la mia esperienza. Io ho comprato una casa in Alto Adige, a Campo Tures, vicino a Brunico, e devo essere una 65 metri quadri nel 2008, ho speso 200.000 euro, avevo azioni quella volta del credito armagnolo di Unicredit, erano in crisi, e quindi ho fatto questa decisione qui. Ha smontato oggi tutto Oggi devo dire che, siccome mi si riempie sempre di parenti, la voglio rivendere per ingrandire, sono stato abbissato dalle richieste, quindi non ho notato questo calo, forse perché la Valle Aurina, che è una valle dell'Alto Adige un pochino più sconosciuta, è piena di piste, e anche le spese, voi prima parlavate di spese di gestione, le spese della seconda casa, che ormai non capisco più se è secondo o è prima, perché mi divido fra Rimini e l'Alto Adige, sono tutto sommato più contenute che nella stessa Rimini. Quindi addirittura è un investimento di vita che non certo è un investimento monetario alla fine. Ha perfettamente ragione, tante volte questo lo diciamo anche quando parliamo di mercato immobiliare in generale, no? E ci ossessioniamo del prezzo, dello spuntare il miglior prezzo. C'è sempre una componente della casa che ci piace che è anche personale, magari anche quella vale in termini economici. È proprio un discorso che stavo facendo in questi giorni con un mio amico che sta comprando casa a Milano e sta facendo una trattativa estenuante per ridurre al minimo appunto il prezzo che che vuole proporre, ma io ieri gli ho fatto questo ragionamento: quanto ti piace quella casa? Quanto vuoi andarci a stare? Quanto è importante per te anche la comodità che ti offre per raggiungere gli amici, il posto di lavoro? Per cui c'è sempre una fettina di prezza fatta, secondo me, Luca Dondi, da noi, e questo vale anche per la casa di vacanza o sbaglio? No, è proprio vero, in questo momento più che mai credo valga più la considerazione seconda casa per utilizzo che non seconda casa per investimento, perché non ci sono prospettive di rivalutazione nel breve medio periodo, la redditività da locazione è comunque contenuta per quanto riguarda il mercato delle località turistiche, e quindi ci deve essere una soddisfazione personale nell'acquisto e un utilizzo che in questo momento rende questo mercato, può rendere questo mercato anche anticiclico. Allora, Salva Danaio termina qui. Io ringrazio molto Paola Dezza per essere stata con noi, Luca Dondi ed Isabella Tulipano. Grazie naturalmente anche a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, per le colonne sonore, visto che adesso si sta specializzando in questa, Gianmarco Ferronato per l'assistenza tecnica. Noi domani ci siamo con una puntata speciale di Salva Danaio dedicata, ahimè purtroppo, al fisco, però vi presenteremo un bel libro che è stato scritto dal nostro collega del Sole 24 Ore Dino Pesole, si chiama ahimè Il Salasso, e però insomma è una novità editoriale molto interessante. Intanto a tutti da Deborah Rosciani, buona giornata.